L'uomo si ferma a pensare qual è il caso che regola il mare. Se può capire il momento che produce il futuro lamento, parlo di curcio che chiede a gran voce libertà per chi ha avuto la croce, un'onda di pace. L'uomo racconta una storia, non c'è uomo che ottiene la gloria, pensieri che fanno tornare a chi è morto e voleva sparare. Parlo di Curcio che con voce chiara parla di lei che non dice mai mara, poi vede una bara. L'uomo accecato per anni non si arrende a negare gli inganni, chiede e racconta le storie di chi riesce a svelare le scorie. Parlo di Curcio uscito di giorno che cammina in un sole che formo e la sera è ritorno. L'uomo ha ferite d'un nome che allontanano persone buone, parla al futuro e al passato, nel presente che è sempre violato. Parlo di Curcio e dell'uomo che coglie, fra persone che guardano soglie, dolori di foglie. Parlo di Curcio che chiede a gran voce libertà per chi ha avuto una croce, un'onda di pace.